soda fu blatta la zar. I tiranni pagani sil tu contratta altlet seclisa knisia lece tatlatkata combi feinlin sara in gia. Tower.